qua, buon pomeriggio e bentrovati, siete in diretta su CRMP Radio all'interno di Semplicemente Insieme, naturalmente come ogni lunedì, mercoledì e venerdì in compagnia di Jerry. E oggi con me naturalmente c'è il nostro carissimo Giuseppe. Buon pomeriggio Giuseppe. Buon pomeriggio. Senti Jerry? Sì, ti sento. Tu mi senti? Io non mi sento come al solito. Ah, ecco, adesso mi sento okay, meglio. Ok, ti ho alzato il volume, ok. Buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori. Hai visto che brutta giornata? La perturbazione, ne parlavamo la scorsa settimana. Sì, dicevamo che bello, ecco. Finalmente è arrivata la primavera. Tra un po' arriverà anche l'estate. Temperatura ottima, ideale per fare, per star fuori invece. Ideale. Arriva la perturbazione a insomma infastidirci un poco. Dicono che sarà così anche per Pasqua e Pasquetta. Per tutta sì, questa settimana sì. Poi tra l'altro tra un po' insomma questa è la settimana santa. Quindi sì. Ovviamente il tempo si cambia un po', si trasforma. Diciamo che ci infastidisce un po', ecco. Vabbè però dai, che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Niente, dobbiamo fare? Solo aspettare. Ecco, aspettiamo, aspettiamo. E poi c'è la nostra bella musica qui su CRM insomma. Quindi cercheremo di tenervi compagnia con la nostra musica. Quindi non state qui sintonizzati su 101.4 e poi naturalmente anche sul nostro sito che ricordiamo è il www.crmpradio.it. Oppure diamo i numeri, inviateci un vostro sms al 335 5637 251, oppure telefonate in diretta 0921 92 32 92, oppure su Facebook basta andare a cercare CRMP Radio e mettere mi piace, diventare dei nostri amici, potete postare, fare tutto sì, quello che volete, farci la vostra richiesta anche da Facebook. E continuate a cliccare mi piace, mi piace. Così magari in studio ospiteremo il nostro fan numero 6000. Ecco, speriamo di sì. Dai. Speriamo di farcela, di raggiungere questo traguardo. Abbiamo ospitato il nostro Vincenzo, fan numero 5000, la scorsa settimana, adesso. Aspettiamo con ansia chi sarà il prossimo. Avanti il prossimo. Esatto. E allora che dici, cominciamo? Cominciamo con la bella musica. Cominciamo sì, perché già 15:15, quindi siamo in perfetto orario, diciamo. Diciamo di sì, dai. Vai. Sharing guns and kill for-

Adele con Skyfall. A proposito della nostra Adele, beh, la notizia arriva, una notizia che diciamo che fa tremare i polsi degli amanti della musica pop, come che si suol dire. Adele, pensa un po', è pronta a registrare un duetto con Robin Williams. Wow. A chiamare la collega è stato proprio l'ex Tedette, che vuole coinvolgerla nel suo prossimo album, che secondo le indiscrezioni riportate dal tabloid The Sun sarà di nuovo swing. Sono passati, pensa, 12 anni dal successo Swing When You Are Winning, che Robin vuole replicare. Bello, mi piace lo swing. Ma tu dirai, Jerry, ma come si sono conosciuti? Infatti, insomma, ma loro due, com'è nato, ecco, come nasce questo sodalizio? Questo idillio musicale, ecco. Però perché per qualche settimana Adele e la sua famiglia hanno soggiornato poco distante dalla casa di Los Angeles di Robby. Sì, anch'io ho una casetta lì vicino, eh. Anch'io, c'ho un box, un box auto, ecco. Va bene. Sono diventati grandi amici, racconta una fonte, e hanno parlato a lungo sull'idea di fare qualcosa insieme. Ma musica. Vabbè, certo, scusa, di musica non parliamo d'altro. Hanno buttato giù qualche idea, ma è tutto ancora allo stato embrionale. I successi di Adele non si fermano, e l'ultima consacrazione è venuta agli Oscar, ovviamente grazie alla miglior canzone Skyfall che abbiamo ascoltato. Esatto. Della colonna sonora dell'ultimo 007. Bello, mi piacciono tutta la serie dell'agente 007, sono appassionata. Sì, sono dei miti. Sì, belli. È un mito 007, è stato interpretato da tantissimi nel cinema. Sì, il grande primo Sean Connery, uno dei, ecco, diciamo, quelli che sono rimasti un Timothy po' nella Dalton, storia, per esempio. Sì, sì. Ti vedo preparato sul cinema. Una volta ogni tanto dici, vabbè, questi qua mi piacciono, questi spionaggi, insomma, questi gialli. Ecco. A me interessano le Bond Girls, sai? Immagino. Che, insomma, sì. La ricordi la grande Ursula Anders? Proprio Anders. Una bellissima attrice, bellissima donna, bravissima sono attrice. Sono state tantissime, tra cui anche la nostra Maria Grazia Cuccinotti, sì, che ha fatto una parte piccolissima all'inizio di uno 007, mi sembra il terzultimo. Esatto. Con Pierce Brosnan. Beh, te lo ricordo. Bravo. Bello anche lui. Bravo e bello, tutti bravi e belli. Affascinante, molto. Affascinantissimi. Dai, che dici? Continuiamo, va, che è meglio. Altrimenti parliamo poi di agenti 007, poi dobbiamo andare a vedere pure chi c'è stato in passato, proprio passato. Certo. Tra poco ricordiamo il corso di formazione che sarà qui in radio. Adesso Eros, andiamo. Che cosa ti aspetti da noi? Chissà se ci pensi mai. Lo sai che anche il mare più blu poi nasconde scogli, c'è da correre per rimanere dove siamo. Perfetta così questa nostra stagione di giorni insieme ad esplorare noi. È perfetta così, ma non c'è vero amore che non abbia bisogno di un po' di cure. Per diventare quel che siamo. Perfetta così questa nostra stagione di vita insieme a innamorare noi. È perfetta così, ma non c'è vero amore che non abbia bisogno di un po' di cure. Guarda in quanti corrono spingendo il freno e non è questa nostra stagione di vita insieme, a raccontarci noi, perfetta così. Ma non c'è vero amore che non abbia bisogno di un po' di cure, le nostre paure. In diretta su CRM Happy Radio, semplicemente insieme, con Geraldina Turdo. I don't wanna be another wave in the ocean. I am a rock, not just another grain of sand. I wanna be the one you run to when you need a shoulder. I ain't a soldier, but I'm here to take a stand because we can. Così che mi fa intimidire, che non riesco nemmeno a parlare. Sono fatto a misura per avere paura, ma se voglio ti posso mangiare. Ti ho concesso anche troppo, esco ma torno presto, però stavolta ti prego vai via, vai via. È tutto inutile, così non può girare. Da adesso scelgo me, l'amore non è amore. Se ti fa aspettare non ho più niente da perdere. Sei un segno sulla mia pelle, non c'è più niente da prendere. Ma neanche niente, niente più da dare. È tutto inutile, così non vado avanti. Non serve chiedere, mi sembra già scontato quanto siamo stanchi e siamo un mare di cenere che io mi lascio alle spalle. Ho una gran fretta di vivere, non ho più niente, niente da regalare. Scelgo me, scelgo me. Spero di mantenere un rapporto speciale, non la prendere sul personale. Ho bisogno di tempo per trovare il mio senso, che da te io mi devo salvare. Ti amo e ti ho amato troppo, con coraggio lo ammetto, però stavolta ti prego vai via, vai via. È tutto inutile, così non può girare. Da adesso scelgo me, l'amore non è amore. Se ti fa aspettare non ho più niente da perdere. Sei un segno sulla mia pelle, non c'è più niente da prendere. Ma neanche niente, niente più da dare. È tutto inutile, così, così non vado avanti. Non serve chiedere, mi sembra già scontato quanto siamo stanchi e siamo un mare di cenere che io mi lascio alle spalle. Ho una gran fretta, fretta di vivere. Non ho più niente, niente da regalare. Non guardarmi così, che mi fa intimidire, che non riesco nemmeno a parlare. E non riesce nemmeno a parlare il nostro Marco Carta con Scelgo Me. È ritornato dopo un po' di assenza, no Giuseppe? Sì, per tutti gli amanti di Marco Carta, gli adolescenti soprattutto, i suoi followers, è ritornato alla grande. È ritornato alla grande, poi pensa un po' che tra l'altro è stato nominato come miglior cantante italiano ai Kids Choice Award 2013. Wow. Per festeggiare, quindi il cantante insomma si prepara comunque al suo tour, che ancora non c'è una data ben prestabilita, però... Partirà verso maggio. Verso maggio, insomma, sì. Queste sono le indiscrezioni. E inoltre presenta anche in esclusiva al TG.com. Sì. Il nuovo video appunto di questa canzone che abbiamo appena ascoltato, Scelgo Me, prima di lanciare quindi questo tour che partirà quindi a maggio all'Alcatraz di Milano e è ancora all'Atlantico di Roma. Quindi. Wow. Abbiamo visto anche sulla classifica iTunes, sì, la scorsa settimana volta, l'abbiamo, sì, ricordato, che Marco Carta è tra i primi top 20 scaricati. Hai visto? No, scaricati in quel senso. Scaricati, diciamo, digitalmente. Mamma. Sui propri iPods. Certo, Giuseppe, scusa. No, poi ricapito l'altro, dai. Non è vero, non è assolutamente vero. Allora, come nasce l'idea di Scelgo Me, secondo te? Non lo so, dimmela te. Allora, l'idea era quella di mandare un messaggio diretto e semplice. Il video è stato girato a Roma da Simone Angiulli ed è in piano sequenza in cui si gioca con le espressioni del mio volto. Per la prima volta ho realizzato un video in bianco e nero e ne sono felice perché rispecchia l'animo del pezzo. Visto Marco Carta, ricordiamo che anche lui tra l'altro è uscito da un talent. Sì, ormai io lo dico, cioè ogni volta che metto qualche canzone non lo sa nessuno per chi magari non lo sapesse, lo ricordiamo, ma... appunto è uscito da un talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, che tra poco tra l'altro partirà anche il serale, quindi partirà della nuova serale, sì, questa nuova edizione, quindi e diciamo scopriremo il nuovo vincitore, il nuovo, di Amici, sì, chissà chi sarà il nuovo talento che lo scopriremo tra poco, a breve entrerà nella scena dello spettacolo italiano, insomma. Che poi sarà comunque difficile mantenere comunque perché non è semplice, non è da tutti. Infatti alcune sono diventate proprio delle meteore, alcuni ragazzi che hanno partecipato proprio a questo talent adesso non li vediamo più, non li sentiamo più, chissà cosa avranno fatto, insomma. Ma la Alessandra Amoroso che sta facendo secondo te? Come che sta facendo? Lei è diventata popolarissima, è famosissima. No, dico in questo periodo non la si sente, però, sì, però sta preparando. Si sta preparando alla grande, come al solito. Mi sa che l'hai ricordato anche tu nelle tue notizie. Sì, io sempre. Perché tu la ami, Alessandra Amoroso. Piace Alessandra Amoroso. No, è molto incisiva nella sua voce, devo dire che. Una grande carica, grande energia positiva. Bene. Molto brava, molto brava. Molto, molto, molto brava. Andiamo a vedere il video di Marco Carta in piano sequenza, vedremo 4 minuti di lui che canta, insomma. A te non il piace suo viso, ecco. Lo andrò a vedere sicuramente. Come no? Allora, intanto vogliamo ricordare ancora una volta, parliamone magari un po' meglio, del terzo corso di formazione radiofonica che partirà appunto l'8 aprile. Le iscrizioni sono aperte fino al 5. Sì, sono aperti a tutti. A tutti, quindi il corso, la partecipazione al corso è completamente gratuita. Per maggiori informazioni comunque andate sul nostro sito, che è il www.crmpiradio.it, e mandate i vostri curriculum a formazione@crmpiradio.it. Il corso ha una durata di quattro settimane, diciamo. I requisiti però, Jerry, è il diploma di scuola superiore. Non c'è un limite di età, no. Però bisogna avere il diploma di scuola superiore. Il corso prevede un numero di partecipanti di 6 persone. E chissà, il riconoscimento sarà un attestato di partecipazione rilasciato dal comune di Cefalù. Dal sindaco in persona, forse. Sì. Tu l'hai ricevuto dal sindaco? Dal vice sindaco. Io dal sindaco. Hai visto? vabbè, sono cambiati. Ah, una cosa interessantissima per tutti gli amanti, insomma, di chi volesse far radio, di chi sogna di fare il DJ o l'animatore, può candidarsi qui da noi e diventare nostro collega qui. E poi ricordiamo che al termine di queste 4 settimane di corso ci sarà comunque uno stage di altre 4 settimane da trascorrere insieme agli speaker di CRMP Radio. Avremo tanta compagnia. Avremo tanta compagnia, bene. Ci divertiremo tutti insieme appassionatamente. Dai. Insieme, semplicemente insieme, appassionatamente con i nostri stagisti. Giusto. Quindi mi raccomando, andate sul nostro sito, mandate curriculum, perché le iscrizioni sono aperte e si chiuderanno il 5 di aprile, per poi partire con il corso l'8 di aprile. Esatto. Bene? Allora ricordiamo intanto pure i numeri per i nostri amici che in questo momento sono all'ascolto, per le loro dediche, le loro richieste. Interagite con noi, inviateci un sms al 335-5637-251 oppure 0921-92-32-92 oppure sul nostro sito crmhappyradio.it, andate nella casellina inviare messaggio, molto... Molto semplice, scrivete il vostro messaggio e insomma arriverà direttamente. Tutto ci arriverà nei nostri studi, all'interno dei nostri PC, nella nostra playlist, quindi mi raccomando. E noi continuiamo con la bella musica, andiamo avanti perché largo spazio giustamente alla musica, ovviamente, Giuseppe. Certo. Breathing you in when I want you out, finding our truth in a hope of doubt, lying inside. Set me longer. We'll run when lights won't shine. tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. C'è una ragione di più, l'hai detto, ma che bravo. Ma questa parte di te, davvero, la ignoravo. Non me l'aspettavo davvero, è come bere il più potente veleno, è amaro. Recuperare ti prego, tanto più parli ancora meno ti credo. Peccato, lascia il silenzio e la sua verità. Aspetta, voglio dirti quello che sento. Il vento. Io spezzata in due dal dolore, mentre ti amavo tu facevi l'amore per gioco. Lasciami sognare la vita, l'hai detto tu, quando è finita io vado, chissà se un giorno poi mi passerà la rabbia che porto nel cuore. Voglio dirti quello che sento, farti morire nello stesso momento. Bastardo, vedere gli occhi tuoi in un mare profondo, farti affogare nei singhiozzi del pianto e spingerti sempre più giù. Bastardo, ma purtroppo tocca a me soffrire, gridare, morire. Tu hai preso senza dare mai. Noi, la cosa che non vuoi. Maledetto sporco amore. Voglio dirti quello che sento, farti morire nello stesso momento. Bastardo. E poi vederti cenere. Bastardo. Ma purtroppo tocca a me soffrire. E siamo ancora qui insieme a voi all'interno di Semplicemente Insieme, naturalmente sempre rigorosamente in diretta su CRM Happy Radio. Questa era Anna Tatangelo con Bastardo, e su questa canzone noi salutiamo la nostra amica Alessandra che ce l'ha segnalato al nostro 335-56-37251, così intanto la salutiamo. Ciao Alessandra. Ciao Ale. Allora, a proposito della Tatangelo, beh, ieri anni... sera, cara Jenny, ho visto questo video. Sì. E praticamente mi sono, sai che ero in un pub dove c'era altra musica e vedevo questo video sugli schermi. Dicevo, ma che è successo alla Tatangelo? È successo, a che cosa si è data la Tatangelo, no? Perché è un video abbastanza osè, un po' forte, un po', come dire, un po' spinto, sì, in un certo senso. Poi oggi ho letto questa notizia che tu adesso ci... Perché praticamente gerai, devi sapere che a due anni di distanza da Progetto B, Anna Tatangelo rompe il silenzio musicale per lanciare il singolo, sì, e il video Occhio per Occhio. Ah, ecco, ecco, ecco. La canzone, Giuseppe, è la dichiarazione di guerra che una donna ferita fa al suo uomo falsamente innamorato, quindi un attacco a chi non le ha dato amore e che ora si merita di essere ripagato con la stessa moneta. Quindi occhio per occhio, dente per dente, come dice il proverbio, no? Ah, ho capito, per questo è abbastanza spinto sto video, insomma. Chissà se ce l'ha con, forse, Area di Crisi, con... Ecco. Con Gigi. Perché secondo me Gigi non avrebbe mai permesso, da buon napoletano, che facesse questo video, insomma. Ma... Però non vogliamo insinuare nulla. No, cioè, assolutissimamente no. Non possiamo insinuare nulla. No. Però a chi l'ha video... dedicato sto video? Che ne so. Prossimamente si saprà, perché sai che le notizie, no? Sì, ma poi la Data Angelo è su tutti i tabloid, per cui lo sapremo ben presto. Lo scopriremo, lo scopriremo. Aria di crisi, insomma. Intanto il fatto sta che sto video è un po', diciamo, tosto. Sì, è abbastanza tosto, bisogna vederlo, insomma. Tu lo consigli, ovviamente. Lo consiglio vivamente, sì. E immagino, come no? Lo sappiamo, sì, bravo Giuseppe, bravo. Vabbè, bravo. Una donna bellissima. Una donna, per carità, una bella donna, devo dire. Bella. E brava, perché comunque ha una bella voce. Bellissima voce, canta sì. Bene, insomma. Brava. Quindi complimenti alla nostra Anna Tatangelo. E noi continuiamo sempre con la musica, sempre qui insieme a Jerry e insieme a Giuseppe. Vai. It's been a while. I'm not who I was before. You look surprised. Your words don't burn me anymore. Been meaning to tell ya. But I guess it's clear to see. Don't be mad, it's just a brand new kind of me. Can't be bad, I found a brand new kind of free. Careful with your ego, he's the one that we should blame. Had to grab my heart back, God knows something had to change. The one thing I need. Why you mad? It's just a brand new kind of me. It took a long, long time to get here. It took a brave, brave girl to try. It took one too many excuses, one too many lies. Don't be surprised. If I talk a little louder, if I speak up when you're wrong, if I walk a little taller, I've been under you too long. If you notice that I'm different, I'm taking personally. Don't be mad, it's just a brand new kind of me. And it ain't bad, I found a brand new kind of free. Oh, it took a long, long road to get here. Took a brave, brave girl to try. I've taken one too many excuses, one too many lies. Don't be surprised. Oh, said you look surprised. I'm not waiting for your okay. I'll never be perfect, but at least now I'm brave. And now my heart is open, I can finally breathe. Don't be mad, it's just a brand new kind of free. That ain't bad, I found a brand new kind of me. Don't be mad, it's a brand new time for me. Il tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. afraid of thunder. I am full of light. I am full of wonder. Oh, oh, oh, oh, I ain't falling under. Oh, oh, oh, oh, I am full of wonder. Though our feet might ache, the world's upon our shoulders. Fuck! farti trovare a terra, tra le cose che con te non c'entrano, ma che per colpa mia ti sfiorano e ti feriscono. Vorrei proteggerti dalla parte sbagliata del mondo, ma tutto quello che posso fare ogni volta che cado è rialzarmi tenendoti in braccio e riprendere il volo. Poi sposti i capelli e fai una smorfia strana, che capisce soltanto chi ti ama. Questa canzone di Gianluca Grignani, Sei unica, saluto la mia carissima amica Deborah, che in questo momento è all'ascolto di CRM. Un bacione grande, Deborah, sei unica, era tutta per te. Ciao Deborah. E noi continuiamo, arriva il nuovo di Michael Bublé. I don't know why you think that you could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby, I'm really. When you said goodbye, my whole world shined. Hey, hey, hey, it's a beautiful day, and I can't stop myself from smiling. If I drink in there, I'm buying, and I know there's no denying. It's a beautiful day, the sun is up, the music's playing, and if it started raining, boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one who got away. It's a beautiful day. It's my turn to fly, so girls get in line, 'cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright, you might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, I'm relieved. This fire inside, it burns too bright. I don't want to stay so long, I just wanna say goodbye. It's a beautiful day, I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, there's no denying that it's a beautiful day. The sun is up and the music's playing, and even if it started raining, you wouldn't hear this boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one who got away. Mm-hmm. 'Cause if would think I'll take up my time with thinking of our breakup, then you've got another thing coming your way. 'Cause it's a beautiful day. Beautiful day. E già, e già, it's a beautiful day. No, Giuseppe? Sì, non proprio per, la, per il te. Meteo, vabbè, però, insomma, sempre noi lo rendiamo bellissimo. Sempre un giorno bellissimo, comunque, ogni giorno è bello. Ogni giorno è bello se si sa viverlo. Bisogna, ecco, pensare positivo, secondo bisogna me. Sempre pensare positivo. Esatto, anche quando ci sono le avversità, quando si sta male, si sta giù di corda, non si ha voglia di fare nulla, sì, si è un po' così. Sì. Bisogna comunque cercare un po' di essere un po' più positivi, no? Sì. Altrimenti ci si abbatte di più e non va bene. Sì, certo. Quindi però... affrontare sempre con un po' di ottimismo non fa male, dico. Quello sempre sicuramente, e soprattutto ridere, tantissimo ridere. Ridere sempre, credo sia proprio il miglior modo per star bene. Anche se le cose, come dicevo poco fa, non vanno sempre come devono andare, no? Come speriamo. Però il sorriso su un stampato in faccia, insomma, ci rende anche... ci fa stare meglio sia noi che gli altri che naturalmente che incontriamo per strada, che incontriamo ovunque, no? Sicuramente, sicuramente. Però ad un nostro amico qui sì, è successo qualcosa. È successo qualcosa di strano. Bisogna ridere, però non troppo, insomma. Esatto, diciamo che si dice la più perduta di tutte le giornate è quella in cui non si è riso. Sì. Però, scriveva il Nicolas de Chamfort, ma per un 42enne americano la risata ha avuto conseguenze nefaste. Robert Schiavelli di Rockville Center, nello stato di New York, sì, pensa un po', Giuseppe, è stato denunciato da un vicino per disturbo della quiete pubblica perché rideva, sottolineiamo, a casa sua, sì, troppo rumorosamente, e la sua risata si poteva sentire dall'altra parte della strada. Quindi non si è padrone neanche di ridere a casa propria. Pensa, cioè, che la polizia gli ha comminato due multe di $250, sì, oppure 15 giorni di prigione, quindi doveva... Ma tu immagina sta cosa, cioè 30... non si può stare... sta cosa è troppo assurda, non si può ridere, no, neanche in casa, cioè praticamente devi ridere in silenzio. Come si fa a ridere in silenzio? È troppo ridere, troppo, e poi andare a finire in prigione. No, no. Dai, non si può, non si può. No, no, non va per niente bene. Queste sono le notizie che ci arrivano un po' da tutto il mondo, e anche questa è vera, sembra strana, ma è una notizia vera. Sì, certo, perché tutte le nostre notizie, cara, sono gente, vere, strane, anche ma quelle vere. Tue un po' così, un po' macabre. Ma quando mai? Io non do notizie macabre. No, no, no, no, no. Ad esempio quello sono della bara con lo stereo, quella insomma mi è rimasta un po' impressa. Ah, quella proprio... Perché mi fermano per strada, insomma, i miei amici, e mi dicono: ma com'è quella notizia là della bara, eccetera. Allora dico: guarda, io non ne so ne nulla, niente, certo. Ecco, chiedetelo a Jerry, perché veramente... Sì, sono io quella che do ste notizie così divertenti. Divertenti, sì, divertenti. Sicuramente. Vabbè, dai, che dobbiamo fare? Comunque sono tutte vere, tutte vere. Tutte vere, tutte vere, assolutamente. Quindi non mica do notizie così tanto per, no. Io mi documento, vedo se sono reali o meno, dopodiché le dico a tutti. No, ma non ho dubbi su questo, guarda, non ho dubbi. Non ti piace la scelta delle mie? A volte no, a volte no, preferisco le mie di notizie. Grazie, sì. Che notizie dai tu, scusami? Quello un po' così, quello un po'... Sì, un po' dove è proprio da stendere un velo pietoso su quelle che dai tu. Stendere così un velo peloso di sopra. Vabbè, andiamo. Lasciamo stare, stendiamo non un velo, una coperta proprio, sì, su questo argomento. E continuiamo con la bella musica, naturalmente sempre qui insieme a me, insieme a Jerry, insieme al nostro simpaticissimo Giuseppe. Vai. Per questa nostra storia in penitenza, anni in difesa, indipendenza, senza dirlo mai. E tu la chiami storia, ma sembra un labirinto, senza cercarci, senza vederci, poi ritorniamo qua. In un secolo, in un'ora, in un attimo e sempre, il tuo sguardo contro il mio, mi racconta la tua storia che però diventa anche la mia. Mille anni fa, da domani io

dominicana, ha avuto un'idea particolare. Sai, insomma, che al giorno d'oggi con la crisi bisogna racimolare, arrotondare un po' gli introiti. Certo, che dobbiamo fare? Cosa si è inventata questa? Cosa si è inventata questa ragazza? Allora, praticamente si fa dipingere sul proprio corpo il logo di uno sponsor e poi si fa fotografare ovviamente da tutti i fotografi con un body painting molto particolare, perché in topless ha un seno fenomenale, direi. Ma va, ecco. È quella che ti ha colpito secondo me, non tanto la notizia. Sì, perché tu vai a vedere il seno e ovviamente vai a memorizzare il logo. E quindi quella è una pubblicità abbastanza interessante, abbastanza che colpisce. Ma insomma, che vabbè, sì, che notizie che dai tu invece. Perché sono un po' così, le tue invece, guarda. Le tue hanno un certo, come dire, significato, però anche le mie. Perché Margherita, devi sapere, fa anche la pianista e si è esibita con importanti orchestre. Racconta di non sentirsi a disagio neppure quando ci sono centinaia di persone agli eventi intorno a lei che la fotografano praticamente nuda. Perché ha solo uno slippino e questo topless, insomma, con questo body painting, e dice: mi sento abbastanza a mio agio con il mio corpo. E certo, ci credo, insomma, con questo corpo. Così, andatela a cercare su internet, insomma, Margherita Dominguez. Ne facciamo un po' di pubblicità, ecco. Sì, in effetti, sì, abbiamo capito tutto. Io sto vedendo le foto, devo dire, una bella, bella ragazza. Sì. L'idea di fare da cartellone pubblicitario umano, perché in effetti è quella l'idea di fare, sì, quello, ecco, è. Le è venuto un paio di anni fa, quando aveva iniziato a fare la modella, ha deciso di monetizzare i molti sguardi verso di lei, perché ha un fisico stupendo. Sì, l'abbiamo capito. Hai capito, Jerry? Sì, l'abbiamo capito, l'hai ripetuto non so quante volte. Sei rimasto proprio abbagliato da questa... da questa bellezza, senza insomma, parole, guarda, senza mi mancano le parole. Sì, è proprio. E poi guarda, sto memorizzando tutte le pubblicità, insomma, di queste foto. Sì, va bene, dai. Solo tu le puoi dare queste notizie, solo tu. che vuoi, io do le mie, giustamente, tu dai le tue. Vabbè, pazienza. Molto, okay. Molto più belle le mie, insomma. Sicuramente, come no? Comunque una trovata, insomma, pubblicitaria per farsi pubblicità anche lei stessa, comunque. Sì, certo, ne stiamo parlando, ovvio, insomma già, quindi dilaga nell'internet anche questa notizia, verissima, quindi verissima da fonti veramente molto attendibili, direi, ecco. Visto c'è crisi e chi si inventa quindi questo lavoro pubblicitario. Sì, ma c'era anche la tipa là che si è inventata il lavoro nelle spiagge. Chi? Aveva, diciamo, come dire, un'attrezzatura particolare sul suo seno, parlando sempre di seni, e andava a dare, diciamo, una bevanda particolare a tutti quelli che erano sdraiati in spiaggia, e si faceva pagare, insomma, e quindi sta avendo anche lei molto successo, mi sembra a Miami, una cosa del genere. Sei aggiornato su queste notizie tutti? Sì, vabbè, me colpiscono certe notizie, cioè, Jenny. Solo le notizie ti colpiscono a te. Sì, come non abbiamo capito, tu c'hai l'occhio lungo. Sì, bene, continuiamo, che dice, andiamo avanti con la musica, non perdiamoci in chiacchiere, dai. Andiamo avanti. Il nuovo di Nelly è il Porsche. In a Porsche, I wanna try ya. Crazy baby girl, there ain't nothing like ya. In a Porsche, so right I had to get ya. Bag it up, let's roll. Girl next door, you sexy thing, you turn me on. I need a private show here on the lawn in my garage. You on the road. Hey Porsche girl, you know what I wanna do. Come and let me slide under, so I can work on you. I wanna take your top off, celebrate the champagne pop off, yeah. And we can turn the clocks off, no rush, baby, we can just park somewhere. I don't need nobody's permission, yeah. No keys, we push start to ignition. Say, hey, love Porsche, I wanna try ya. Crazy baby girl, there ain't nothing like ya. In a Porsche, so right I had to get ya. Bag it up, let's roll. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

se l'ha trovata il nostro Cesare Cremolini. Ma questa la dedico a te, dai. Cioè. La dedichi a me? Sì, una come te veramente non si trova in giro. Sono unica. Unica, è speciale. E meno male che è unica. E su questa canzone che adesso state per ascoltare saluto un grandissimo amico, Marco, un bacione grande. Ciao. There's a nail in the door and it's glass on the lawn. Tacks on the car and the TV is on. The boy will sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the demon stops and I just can't say. What should I do? Just a little baby. What if the lights go out and maybe? And then the wind just starts to moan outside the door. Can you follow me home now? Good night. Moon, I want the sun. If it's not here soon, I might be told. Don't go with too soon till I say goodnight, moon. There's a shark in the pool and a witch in the tree. Crazy old neighbor and he has been watching me. And his footsteps loud and strong coming down the hall. Something's under the bed, now it's out in the hedge. There's a big black crow sitting on my own ledge. And I hear something scratching through the wall. Just a little baby. What if the lights go out? Maybe I just hate to be alone outside the door. Can't follow me home now. Good night, moon. I want the sun. If not, you'll soon have my blood. No one could be too soon till I say good night, moon. C'è la richiesta sempre qui alla 335-56-37-251 e ancora vi ricordo lo 0921-92-32-92 e poi ancora Giuseppe. Pure il nostro sito crmhappyradio.it, c'è la finestrella come dico sempre io, inviare il messaggio, è abbastanza semplice, scrivete tutto quello che volete, parolacce no dai. Eh no, quelle no. Non ne accettiamo. Non vanno bene, non vanno bene. e vi faremo le vostre dediche, insomma. Vi accontenteremo. Assolutamente sì. Certo. Allora parliamo ancora una volta del nostro corso, terzo corso di formazione radiofonica. Vi ricordo che partirà lunedì 8 aprile, è organizzato quindi dalla nostra emittente radiofonica CRMP Radio con il patrocinio del comune di Cefalù. Il corso avrà una durata di 4 settimane, quindi fino al 30 aprile, durante le quali gli aspiranti speaker, fonici e animatori avranno la possibilità di apprendere direttamente dal vivo, quindi sul campo, quelle sì, che sono le, esatto, le peculiarità del mondo radiofonico e in particolare il flusso di lavoro e di organizzazione di un'emittente radiofonica. Esattamente. Gli studenti inoltre avranno anche la possibilità di confrontarsi direttamente con gli speaker e i redattori di CRMP Radio, partecipando quindi attivamente alle trasmissioni, alle registrazioni e all'organizzazione del palinsesto radiofonico. E a tale parte pratica verrà affiancata, alla parte pratica volevo dire, scusate, praticamente. Praticamente, verrà anche affiancata una parte teorica con argomenti quindi riguardanti la dizione, la conduzione, l'animazione. E poi a conclusione di questo periodo, questo corso, praticamente ci sarà uno stage diretta di 4 settimane. Quattro settimane da passare qui con noi, in studio, insomma durante le nostre trasmissioni, eccetera, eccetera. La direzione di CRMP Radio si riserverà il diritto di selezionare gli aspiranti partecipanti sulla base dei curriculum vitae ricevuti e dall'esito del colloquio selettivo. Quindi si manda il curriculum a, ricordiamo, l'indirizzo, esatto, formazione@crmpradio.it. Ci sarà un colloquio poi dopo, insomma in base all'esito del colloquio poi verranno selezionati i fortunati 6 che faranno il corso qui da noi praticamente. La partecipazione al corso è totalmente gratuita, la vogliamo ricordare. Ricordiamolo bene, sottolineiamolo. Sì, sottolineiamolo. E alla fine delle 4 settimane verrà rilasciato un attestato di partecipazione direttamente, insomma, dal sindaco, dal vice sindaco, insomma, dal comune di Cefalù. Allora, le selezioni sono aperte dal 25 marzo fino al 6 di aprile. Il candidato può inviare, abbiamo già ricordato, il proprio curriculum vitae all'indirizzo formazione@crmpradio.it, oppure ci abbiamo anche dei numeri, insomma, da vedere sul nostro sito crmpradio.it. E sto vedendo che il corso, insomma, è abbastanza forbito, sì, molto interessante. Ci sono cose interessantissime, tecniche di animazione, storie della radio, software di audio editing, eccetera eccetera, tecniche di mixaggio, veramente per chi fosse interessato, insomma. Questa è una mandate opportunità, dai. Sì, molto bella, molto bella. Tu hai fatto il corso, adesso ti ritrovi qua. Tu hai fatto il primo, io ho fatto il secondo. Io ho fatto il primo, sì, e chissà, magari avremo altri colleghi, insomma, qui del terzo. Io non pensavo di fare il corso, poi alla fine ho deciso di farlo. Sì, ho mandato il mio curriculum e poi alla fine adesso mi ritrovo qua a condurre Semplicemente Insieme. Una grande stella la nostra Geri. Sì, Giuseppe. Ma vogliamo ricordare anche la mia rubrichetta, insomma, di cinema. Ricordiamola, certo, come no. Assolutamente, quindi dal nostro, da mercoledì, sempre tutti i mercoledì, la nostra rubrica Happy Cinema. Anche il prossimo mercoledì ci sarà, e con novità, i film in uscita, i film più visti durante il weekend. Sta avendo un notevole successo, devo dire. Sì, sì, ma sì, lo sappiamo, tu sei bravo, sei grazie, bravo. Grazie, grazie, grazie. Va anche, diciamo sul sito di cefaluweb.com in maniera scritta. E i nostri amici di Cefaluweb, insomma, vediamo se riusciamo ad averli in studio mercoledì, così. Sì, speriamo di sì, insomma. I nostri, io li ho soprannominati i ragazzi dell'informazione, insomma, no? Gestiscono questo sito, c'è Flow Web, molto seguito dai giovani, e li avremo qua, insomma, vedremo mercoledì prossimo, appunto, eccetera, riusciamo. E ci illustreranno un po' il loro sito, insomma, con molto ci parleranno, piacere. Esatto, un po' di quello che fanno, di quello. Sì, sì, sì, sì, sì. Bene, bene, bravo, l'hai ricordato. Ok, Geri. Ok, perfetto. E noi continuiamo ancora con la bella musica. Arriva lui, il grande Adriano Celentano, e su questa canzone saluto Maria, un bacione Maria. Affamati come lupi, viviamo in crudeltà, e tutto sembra perso in questa oscurità. All'angolo indifeso ti cerco accanto a me, da soli

you close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all? And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from us. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. I don't mind if you're running around giving someone the time. It's alright, cause I know that you love me. With a whole lot of wonder going through my head. This talking before gets a little bit lonely. I'm too cool to lose my control. You're too cool to call. Maybe I just don't wanna know. You're out there having it all. Baby, come home to me. Baby, come home to me. It's a 3:30. Baby, come home to me.